Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. È abbastanza probabile che i nostri antenati, migliaia di anni fa, prima dell'invenzione del calendario, guardassero con terrore un fenomeno che si ripeterà domani, quando la Luna eclisserà parzialmente alle nostre latitudini il Sole. Ebbene, la nostra civiltà ultra progredita torna a guardare con un po' di trepidazione alle eclissi. Infatti domani il Sole verrà oscurato per la prima volta su un continente dove una quota significativa dell'energia elettrica messa in circolazione durante le ore diurne viene prodotta con il fotovoltaico. Sarà un test importante per i gestori delle reti elettriche europee che si stanno preparando ad affrontare una rapida diminuzione dell'energia solare seguita poco dopo da un suo ancor più rapido ritorno sui valori di partenza. Ne parliamo con Stefano Besseghini, amministratore delegato di RSE, Ricerca Sistema Elettrico. Buonasera Besseghini. Ciao Maurizio, grazie, buonasera a tutti. Allora, intanto che cosa può succedere a una rete con tanto fotovoltaico quando arriva un'eclissi? Perché non è come quando arriva un fronte nuvoloso, per esempio? Beh, intanto sicuramente l'elemento principale è l'estensione di questo corpo nuvoloso, nel senso che l'eclissi è come se improvvisamente su una fetta di territorio estremamente esteso venisse a mancare contemporaneamente l'irraggiamento e quindi la generazione da fotovoltaico. La questione critica però alla fine è sempre quella fondamentale che caratterizza il sistema elettrico. Il sistema elettrico deve essere costantemente in bilancio tra quanta energia viene generata e quindi è evidente che se una parte della generazione viene improvvisamente o comunque con una velocità sufficientemente elevata a mancare, bisogna porre... Si destabilizzano, no? Si destabilizzano le reti. Ecco, si parla di circa 38 gigawatt che in pochi minuti tutto sommato verranno a mancare e poi torneranno in linea. Quindi più o meno 38 centrali nucleari a livello europeo, certo. A livello europeo, però ormai le reti sono anche interconnesse. Certo. Ecco, quali sono gli strumenti che un gestore di rete ha per affrontare una situazione di questo genere? Sicuramente deve inseguire, diciamo, questa mancata di generazione lavorando o attraverso una generazione che sia controllabile, quindi gas, che è quello più disponibile a fare le cosiddette rampe di inseguimento, oppure l'idroelettrico, certo, che è un'altra fonte molto preziosa per compensare queste variazioni di generazione, oppure cercare di lavorare sulla diminuzione del carico e quindi intervenire diminuendo, avendo meno generazione, corrispondente meno carico, vuol dire... Convincere per esempio delle industrie a spegnere, no? Per un po'. Un'altra possibilità è semplicemente tagliare fuori il disturbo, sostanzialmente isolare il fotovoltaico, in questo caso dalla rete. E un altro accorgimento che si sta prendendo in Europa è quello di, diciamo così, ridurre le importazioni di energia dagli altri paesi, vero? Direi che questo è soprattutto una cautela per tenersi le mani libere sulle interconnessioni tra i diversi stati, perché se io ho le reti libere dalle importazioni e dovesse succedere qualcosa, posso immediatamente intervenire. In Italia il gestore della rete in alta tensione, che è Terna, ha stabilito la riduzione intanto da 8 a 1 gigawatt di queste importazioni dall'estero e poi il distacco di circa un quarto degli impianti fotovoltaici, oltre 4 gigawatt di potenza, dalle 7 alle 14. Intanto, quale sarà il momento più critico della giornata? Ma certamente la fase di rientro sarà quella più... Cioè quando alle 14 tutti riattaccheranno il fotovoltaico. Ma non è un po' strana questa decisione? Non era più facile a questo punto inseguire l'eclissi che è più dolce? Ma le 14 sono certamente il momento di maggiore generazione, sono anche un momento di relativamente basso consumo, di consumo relativamente stabile, però è certamente una sfida. Ecco, la scelta, al di là di questo poi del distacco, ha fatto un po' arrabbiare gli ambientalisti, perché quel giorno naturalmente una parte della produzione fotovoltaica verrà buttata via e in Italia non ci sono compensazioni per il reddito perduto. Ecco, come si stanno attrezzando gli altri gestori di rete europei? È vero che soprattutto in Germania e Spagna, dove l'eclissi sarà anche più importante, ci sarà un maggiore oscuramento e c'è tanto fotovoltaico, non ci sono previsti distacchi del fotovoltaico? Sì, non risulta che ci siano distacchi del fotovoltaico programmati. C'è da dire che ogni paese è veramente un po' una storia a sé, perché dipende anche molto dalla configurazione di rete e da come i singoli impianti sono in grado di modulare con quale tempistica. Alcuni paesi hanno deciso di potenziare molto la riserva, quindi di avere ovviamente il costo legato a quel tipo di intervento. Quindi tenere tante centrali pronte a intervenire, diciamo. Altre hanno fatto particolari accordi con il consumo, per cercare di avere della distaccabilità pronta in quella giornata. Quindi ovviamente con gli strumenti che ci sono, molti paesi fanno una grande affidabilità sull'idroelettrico. Anche noi abbiamo una quantità interessante di idroelettrico, ma ad esempio concentrato in un altro paese molto precisa. Ecco, ma quindi complessivamente in Italia non siamo davanti a un eccesso di prudenza, un tentativo un po' di così evitare questa messa alla prova? Un eccesso di prudenza, c'è una gestione sicuramente molto attenta, d'altra parte proviamo a immaginare il contrario, nel senso dovessimo avere una qualunque problema e non aver esplorato tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, tra cui quelli più semplici, probabilmente la situazione sarebbe peggiore. Va bene, grazie. Grazie Stefano Besseghini. Ok, grazie. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.